Cerchi una convenienza imbattibile? Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online fino all'11 giugno. Birra Bex, bottiglia da 600 ml, a soli 98 centesimi. Carrefour, il meglio per me, anche nel prezzo. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec. Cerca su Facebook, Telegram e Instagram Runtime Radio. Mettiti in contatto con noi, scopri il nostro palinsesto su www.runtimeradio.it. Questo è un tempo molto pop, lo aspettavo da un bel po'. Ci mettiamo a raccontare quello che non vuoi sapere. Il nuovo ordine mondiale, capeggiato da un maiale, o la stanza dei dottori. Giocano i coni, TV, film ed ultima ora, la serata si colora di notizie e dicerie, molte sono fesserie, ma c'è ancora un bel cavillo, William Shatner, non c'è ancora un coccodrillo. Con questi conduttori non saranno rose e fiori, e li state ad ascoltare, ma mandateli a zappare! Ladies and gentlemen, from Monte Rotondo, Italy, this is the night of Pop Corner in a special edition. Pop Corner with me, Simon I. Pizzi, Marco Gualdai. Welcome to Pop Corner. Guarda, non sei già non sei in condizione di fare questa roba, no? Ce lo stiamo giocando, ragazzi, attenzione qui in questa versione dove si parla di morti e quindi chiaramente lui voleva fare lo scoop. Di quali morti? Vari morti, vari dei morti. Meglio morti, dei meglio morti, esatto. Meglio morti. Dall'altra parte, ma sempre insomma in codesti lidi, c'è Walter Sbanaus. Scusate, a me la morte mi mette fame, perdonatemi. È morto di fame, quindi. Esatto. L'ho sempre detto. Esatto, sì. Buonasera, bentrovati. Guarda, è come se fossi stato con voi fino a 5 minuti fa. Esatto. Insomma, lui passa da una diretta all'altra con una disinvoltura che nemmeno Frogger la rana riusciva a come fare. Come io mi cambio i pedalini la mattina. Esatto. Tutto questo senza avere il tempo di cenare, quindi eccomi qua con le patatine. E allora sgranocchia. Sì. Ok, ma c'è addirittura, pensate, in extremis, o anche detta in zona Cesarini, in exequia, come era? Il redivivo? Loro redivivi. Carmenai Puccio Consolei. Predimorto. No, scusate, noi redimivi, loro redimorti. Io ho solo una domanda subito da fare a Marco. Come va la beta, Marco? La beta, Max? La beta va benissimo, continua a essere sempre più beta e tra un po' diventerà alfa, credo. Vabbè, poi ve lo spieghiamo, ci capiamo, magari. Ci capiamo. Vabbè, ve state a capire. Ve state a capire da soli, ma i ragazzi vostri, ditelo, prendetevi una stanza. Infatti, no. Sai com'è? Si qual parla è... di viaggi nello spazio che improvvisamente vengono rimessi in beta. Ok, tra l'altro ieri sera abbiamo parlato di Star Citizen, Gualdi, quindi tu alla tua nemesi. Che sta in pre-alpha. Dopo 20 anni. Da 15 anni. Dopo aver bruciato il PIL del Texas. Eh sì, solo 700 milioni di euro. Quanto sono dollari. Anche se ormai siamo più o meno lì. Vabbè, comunque, ragazzi. Intanto ricordiamo che Gualdi ha ricevuto una nuova scheda grafica. Questo lo diciamo prima di entrare poi nel mood della puntata. Esatto. E voglio annunciare a tutti che si collega. Si accende, funziona. Che si accende, non solo, ma sto giocando a Morto Rosso Redemption. La redenzione del Morto Rosso. Bravo, era ora. Momenti emozionanti. Soprattutto, racconterei una cosa che è molto da popcorn. Il fatto che... magari quel gioco con i cavalli? Con i cavalli. Gioco di cavalli. Che si vedono proprio i coglioni dei cavalli. Le palle, poi cagano. Gioco di sparare ai cavalli. Cagano come che mi diano una mano. Io ho sempre l'aneddoto che quando giocavamo al primo Red Dead Redemption, Gualdi se buttava giù dai canyon. Ah, guarda, allora nel secondo però, è ancora più però figo. Non lo facevamo apposta perché in realtà si vedeva. In Red Redemption Marco se buttava giù dai camion? No, dai canyon, i canyon. Cioè, canyon. Non è che mi buttava i canyons venivano sotto. No, perché tu correvi col cavallo, a un certo punto non si vedeva perché la prospettiva era un po', era tutto rosso, quindi non è che tutto rosso. E a un certo punto le colli, dice che non c'era più il terreno sotto e sto povero cavallo. Capire, una roba tipo il finale di Thelma e Louise, cioè sì, esatto. Però in volontà Marco e Simone sono un po' Thelma e Louise. Esatto. Hotel e Louise. No, però. Louise. Però raccontiamo che tu quando hai preso in mano per la prima volta la scheda grafica, dall'emozione l'hai rotta. No, perché praticamente ti raccontiamo bene, perché io l'ho presa come una reliquia santa, insomma, infatti l'hai rotta. Con la delicatezza con la quale si maneggia uno scroto, proprio la di un cavallo. Piano perché ti arriva pure da zappare in faccia. Io l'ho presa piano, appoggiando il mignolo sulla ventolina, l'elichetta che vedete essere spezzata. Lo fanno. Di che scheda grafica stiamo parlando? 1660. Di quella che c'avevo io prima di quella nuova. Allora, scorreggio prima un pochino. Che tu avessi la 2070. La 2070 che insomma, ricordiamo sempre, ringraziamo Puccio e tra l'altro gran bella scheda, insomma, devo dire, non ho mai avuto un computer che andava come adesso standard. Adesso regali la 3060 che sono mi passano le 70. Per farmi un attimo i cazzi miei. I cazzi tuoi. Io ho una 3070 che mi avanza. Eccolo. Così tu vedi la 2060 a me. E fa ma è tutto uno scalare. No, ma io ho capito che qua è la partita del giro. No, è tutto uno scalare, capito? Comunque un cavallo di ritorno. Comunque, guarda, sotto di me ci stanno i bambini africani, quindi io gli passo le schede che mi avanzano. Esatto. Allora, scusate, io vi posso dire, io sono stato aggredito brutalmente, da chi? Ma la persona che conosciamo, per aver detto ma avessi saputo avrei aspettato a cambiare la scheda video, avrei preso la 5070. Mi sono sentito dire fa cacare, effettivamente mi sono andato a vedere i livelli di performance di queste schede fino a quando non escono i giochi ottimizzati. Vabbè, comunque noi non volevamo parlare di questo. Non volevamo parlare di questo perché non ce ne frega niente. Però la cosa importante è che Gualdi ha praticamente rotto sta scheda, la ventola. Non l'ho rotta. Aspetta, l'hai rotta. Danneggiata. Però poi a un certo punto, dopo 3-4 giorni, mi ha detto: guarda, io la scheda l'ho montata, però mi fa quel rumore che mi dà un po' fastidio. Non è che per caso ti è rimasta la letta rotta da qualche parte. Ecco. Sì, ma non cioè, lui l'ha trovata. Cioè, me l'hai chiesto senza nessuna speranza. Speranza zero. E tu quando me l'hai chiesto, io ho detto: ma che cazzo mi stai a chiedere? L'avrò buttata l'altro anno. E invece era ancora esattamente dove l'avevo lasciata. Esattamente lì. Esatto. Sai, invece, siccome noi abbiamo lo stesso disturbo di quelli che finiscono nei programmi di D-Max, tipo sepolti tra i rifiuti, eccetera, eccetera. Cioè, abbiamo trovato la letta, è vero? Esatto, però me la sono sbattuta, ma no, è troppo complicato. La serata è fatta. Esatto. Sì, perché poi con la colla, insomma, no, è troppa roba piccola. Quindi devi dire il trrr, che poi ti fa l'effetto proiettore, come guardare un film al cinema ai vecchi tempi. Perfetto, insomma. Infatti mi sento molto Buster Keaton. Cosa che Sbano conosce benissimo, perché lui faceva il proiezionista una volta. A voglia? Ah no, sbagliato. C'è la videoteca la volta. Esatto. Non è che ce l'avevo. Non c'aveva la videoteca, che è? Addirittura, insomma. Lui era la videoteca. Era la videoteca, esatto. Infatti faceva anche il bancomat della videoteca, che ricordiamo che per quelli che non sanno, una volta si andava a noleggiare le cassette nelle videoteche, ma addirittura poi è inventata questa meravigliosa tecnologia, era il bancomat della videoteca, dove tu praticamente le videocassette le ritiravi tramite il bancomat e le reinserivi nel bancomat. E ragazzi, io non ho mai visto una quantità di appiccicume tale come quando tu andavi a rimettere le cassette. E a volte, cioè, non ho capito, ma e a volte abbiamo anche il bancomat, c'era lui che metteva le cassette a mano, esatto. In realtà. No, e faceva i rumori, ma però era lui che in realtà tirava dentro fuori la cassetta. No, ma secondo me abbiamo anche contribuito all'appiccicume, perché sì, insomma, perché il bancomat delle videoteche a che cosa serviva, ragazzi? Cioè, non serviamo per culo, no? Cioè, nel senso, serviva per prendere. Vabbè, no, per due cose. I porno, due cose. Per i porno, per riconsegnare, ma non so, anche prendere, immagino. Prendere, okay. Certo. Allora, e riconsegnare prima che scadesse la mezzanotte e che te partisse la mora. Sì, quella era proprio la seconda cosa. Diciamo che, tranne le versioni, diciamo, di ultima generazione, prima della fine del mercato dei videonoleggi, il catalogo dentro il distributore automatico era separato da quello in negozio, perché ovviamente venivano gestiti separatamente, quindi nei casi più comuni quello che veniva noleggiato in negozio andava comunque restituito in negozio, quello che veniva noleggiato alla macchina si restituiva nella macchina. È vero. Infatti le cassette avevano le buche. Sì, tu potevi lasciare nella buca, che era una specie di buca delle lettere, le videocassette che dovevi restituire, tanto dopo, se avevi comunque un ritardo, te li addebitavano successivamente. Sì, è vero, perché comunque le cassette erano codificate. Noi tutti abbiamo un ritardo. Una volta ho aiutato un amico mio a caricare il bancomat con le cassette, che aveva lui la videoteca a Pomezia. Pensavo il bancomat della Banca Popolare di Montenotto. No, ma comunque la cosa bella è che appunto tu andavi lì de notte, perché c'avevi il momento della pippa, eri ingrifato, andavi al bancomat così nessuno ti giudicava, però poi puntualmente ti arrivava quello dietro di te che pure lui doveva noleggiare, quindi tu noleggiavi il primo film che ti capitava. Esatto. E poi quello dietro diceva: Simone, come sta mamma? Esatto. E quando andavi a casa magari avevi preso la cassetta dei Froci, insomma, che avevi preso Piccolo Pippo Cucciolo Eroico. Esatto. Piccola Pippa Cucciolo Eroico. Il treno dei maschi avevi preso, insomma. Quindi era voglio salutare Massimiliano Leonardi a questo punto. Chi è? Sì, ma Angoia prima, no? Titolare della videoteca. No, Angoia prima, questo è film porno. È il titolo di un film porno. Sono abbastanza sicuro di averlo visto da qualche parte. Non so. Potrebbe essere un'impressione. Vabbè, prego, Sbano. Allora, no, questo personaggio che ho citato era un cliente della videoteca celebre, perché c'aveva proprio. Era strafottente. E c'era sta cosa che noleggiava tanti film porno, ma aveva il terrore che potesse per sbaglio noleggiarne uno gay. Allora, spesso e volentieri capitava che arrivava, entrava nella saletta dei porno, usciva con una custodia in mano, venisse verso di me, indicando la custodia col dito, e mi facesse: ma che è, chi Froci questo? E ovviamente quando c'era gente in negozio che ti metteva un po' in imbarazzo, ti prendeva un po' alla sprovvista, e poi gli dovevi dire: ah, Massimiliano, con tutta la stima, ma te pare che li ho visti tutti? Allora dovevi andare a vedere col titolo, dico, che era, che ne so, Tre cazzoni per Ubaldo, potrebbe essere questo. Allora, potrebbe essere. Intanto salutiamo Puccio e Luca S in chat. E tra l'altro, no, Puccio. Come scusa, Puccio e Luca, no, scusa. Puccio è un po' un problema. No, Luca, no, Luca S, Luca S e Mister Zero. Però mi sono confuso perché Mister Zero chiede Puccio, Don Puccio come butta. È un zero. Quindi, insomma, è comunque anche Puccio in chat è il titolo di un porno. Però Puccio più moderno. Sì, Puccio in chat, esatto. C'è un Puccio in chat. Comunque, nella mia mente, Puccio in chat. Ah, Puccio in chat. La sua prima foto. Per me era Randall di Clerks. Dunque, avevo questa immagine di Walter che era proprio uguale a Randall di Clerks. Moralmente lo sono, e lo ripeto: il ruolo non determina il comportamento. Però io mi sono sempre sentito molto Dante. Determina la ciancicanza. La ciancicanza che è importante. Comunque, ragazzi, dico, finito. Se mi permette, io qui manco ci dovevo venire. Se mi permettete, Puccio, innanzitutto, dove sei? Dalla cabina del telefono sotto casa? No, sono in macchina. Sto tornando a casa. Non c'avevamo. Sono stato a mettere un cliente in condizione di lavorare domani mattina all'aperto. Ok, quindi potremmo perderti nella prima galleria possibile. No, sono arrivato. Adesso arrivato, passo Switch al PC. Switch, quindi ti perdiamo comunque in qualche modo, insomma. No, penso di no. Vabbè, comunque sti cazzi. Comunque ne approfitto per farvi sentire la canzone, dalla quale ovviamente, insomma, diciamo che diamo un po' il mood, no, della serata. Che dobbiamo rientrare, siamo un po' usciti. Esatto. E già sentite, insomma, le sonorità. Oh yeah. Oh my god. C'è Gunther. Ah, oh, it's so big. You touch my tralala. Mosta puttar culo. Oh my god. Tra l'altro, ricordiamoci di caricare la puntata col tag esplicito. The cats. Zitto. C'è la canzone, zitto. Sono molto preoccupato. Allora, ragazzi, lei è Jana Lou Müller, che insomma è venuta a mancare poco tempo fa, e che tutti voi direte, insomma, chi cazzo è? Eppure molto più famosa di quanto questa Jana Lou Müller, insomma, è molto più famosa di quanto voi pensiate, insomma, sicuramente non era, allora, non era quella che produceva gli yogurt Müller. No. Però di yogurt ne ha fatti produrre. No, no. È una... Però caldi. Però caldi, esatto. Luca ha già indovinato comunque. Vedi, vabbè, ma perché è un'artista americana, figlia di artisti americani, che insomma con il suo spirito indipendente ha lasciato la famiglia molto presto, guadagnandosi da vivere facendo la spogliarellista. Anche lei voleva farsi una famiglia. Tra l'altro lei è nata... Ma tutta la famiglia. Tra l'altro lei è nata a Woodstock. Woodstock? Woodstock. Ok, ma c'è, esatto. è nata durante il concerto? No, perché è nata nel periodo del concerto. Però insomma è figo il fatto che dice: dove sei nato? Sono nato esattamente 9 mesi dopo il concerto. Oh sì, esatto, può essere. E quindi insomma alla fine cosa un po' che fa ridere, la cosa che fa un po' così tra virgolette, dice: sì, mazza, è nata a Woodstock, è morta a Reggio Calabria. È morta a Reggio Calabria, poi ci arriviamo, perché insomma noi conosciamo questo personaggio che a un certo punto è venuta in Italia, come tante diciamo artiste italiane. Lei è sono venuti in Italia grazie a lei. In Italia, assolutamente. Poi tra l'altro, vabbè, ci sono delle battute che dopo purtroppo non potrò esimermi dal fare. Una se l'è fatta anche da sola, no? Nel senso, perché disse che lei aveva il sedere più bello del mondo, ma nella vita non ci ha avuto culo. Che in effetti è anche un po' sfortunata. Un po' di sfiga ce l'ha avuta. Comunque poi è venuta in Italia, oltre a aver fatto in Italia, e ha conosciuto insomma un tizio che di cognome faceva Cassini, che era insomma un personaggio abbastanza importante, cioè che fa con la moda e via dicendo, e lui l'ha praticamente sposata, introdotta nel mondo insomma del mondo dello spettacolo in Italia. Però insomma lei fondamentalmente ha fatto tantissimo cinema ed è ovviamente conosciuta al secolo come Nadia Cassini, che ha una carriera importante da un certo punto di vista, perché ha fatto anche roba a livello internazionale, perché quando è finito il suo primo matrimonio lei poi è stata in Inghilterra, si è sposata con un attore greco, ha fatto film anche nel Regno Unito, poi lei ovviamente c'era questa cosa della barriera linguistica, la canzone è finita proprio così de botto, no? È il file così che non è così de botto senza senso, e insomma ha fatto tanti film anche a livello internazionale. Prevalentemente le pellicole che lei ha fatto, soprattutto all'inizio, erano tutte pellicole a sfondo erotico, dove si mostrava anche con nudo integrale, scene d'amore e via dicendo. Però lei è esplosa, la grande Nadia Cassini, con un periodo culturale particolare in Italia, che noi a volte un po' lo piamo per culo, a volte lo viene un po' considerato cult, allora un po' tutti lo guardavamo un po' anche con sdegno, però in realtà è stato un fenomeno culturale importante in Italia, che è quello della commedia sexy, no? Dove si facevano sti film, praticamente considerate che nell'arco di un anno si potevano fare anche 10-15 film tutti a rota, insomma, perché la gente andava al cinema e se li vedeva. Però poi lei ha anche fatto tanto scandalo e ha creato tante polemiche in un paese che da una parte faceva le commedie sexy e c'era la rivoluzione sessuale, dall'altra faceva i crocifissi e diceva: ah, Madò, Marò, Carmen Sant, padre Marò, Maronna Puc Sant, Maronna Incoronata e via dicendo. Tra l'altro, uno dei momenti più importanti e scandalosi della sua carriera fu proprio quando, insieme a un attore che adesso in questo momento mi sfugge il nome, Lando Buzzanca, fece questa scena nella televisione italiana. Poi lei ha fatto grosso successo anche grazie alla televisione italiana, soprattutto Mediaset, quando poi è finita tutta l'era, insomma, della commedia sexy. Però fece questa scena che si chiamava La frittata porno, e addirittura ci fossero interpellanze, cause legali, perché non era concepibile che la parola porno potesse essere utilizzata tante volte nel vocabolario all'interno di una trasmissione televisiva. Però vabbè, lei famosa, iniziata negli anni 70 con i film erotici, poi con media sexy, insomma, io penso che ha fatto diventare uomini tanti di noi, diciamo, la verità. O ciechi, dipende. No, più uomini, secondo me. Uomini ciechi, esatto. Che poi, insomma, una cosa non esclude l'altra. E era una bellissima donna, molto. Ci sono uomini ciechi, esatto, che guardavano Cassini. Però era poi la canzone, mi sì, poi dopo con Berlusconi lei si è reinventata, insomma, anche showgirl, e fino guarda a che... caso con Berlusconi. Esatto, guarda caso con Berlusconi. È casuale. È vero, ma anche se ha fatto anche roba con la Rai, però prevalentemente con Berlusconi, e poi addirittura ha fatto questa carriera un po' così, diciamo, nella fase finale della sua carriera, quando stava praticamente scomparendo, quando oramai la sua era era già passata come cantante, e è famosissima la canzone A chi la do stasera, che insomma è... Vabbè, lei ha fatto tutta la carriera sull'ammiccamento sessuale, se non addirittura proprio sulla sessualità, insomma, ed era buona, se ne dica, era buona Nadia Cassini, era buona. E non so, volevo sapere anche un vostro ricordo, dato che recentemente è venuta a mancare dopo una lunga malattia. Tra l'altro, lei tanti problemi, tanti matrimoni, ma soprattutto avendo improntato tutto sulla fisicità, ha avuto un grosso problema proprio con la bellezza, perché facendo un intervento chirurgico al viso di chirurgia plastica pare che abbia avuto un danno devastante e dolori atroci che si è portata per tutta la vita. Sì, è stata proprio deturpata completamente, esatto. Per un'ustione non ho capito mai causata effettivamente da che cosa, però praticamente a causa di un problema con un intervento al naso, si trovò, esatto, con un'ustione di terzo grado su tutto il viso, e le hanno anche dovuto amputare parte del praticamente del padiglione auricolare, un orecchio, sì. E lei... gli hanno tirato l'acido muriatico addosso, perché come fai a ustionarti durante un intervento di chirurgia estetica? E cosa succede quando fumi mentre operi? Guardate, francamente me lo sto chiedendo anche il dottor Cotto, no, esatto, non c'è proprio senso, esatto, su Battlestar Galactica ti avrebbero spiegato come sarebbe, come ha ciccato male il dottor. Su Battlestar Galactica c'è Stanley Siloni, qua è un po' diverso. No, Battlestar Galactica c'è il dottor Cotto, che è diverso. Esatto, che operava con la sigaretta a bocca, insomma. Sì, vabbè, tutti fumavano a Battlestar Galactica. Esatto, dentro una nave stellare all'interno cioè in un contesto nello spazio. Ma mi siete mai chiesti i sigari da dove cazzo arriva? Vabbè, no, riproducevano. Allora arrivava tutto il resto delle cose che usavano per vivere, non è che il sigaro delle sigarette. Vabbè, le riproducevano, convertito gestito diverse navi in fabbrica di armi, fabbrica di cibo, insomma quello c'è stato, solo che però ogni tanto queste navi sparivano, quindi prendevano vabbè, però stavo... quelle con le sigarette mai, perché i siloni non fumavano, esatto, non mi interessavano questo, perché, questo no, no, perché il silone furbo dice oh, se non l'ammazziamo noi l'ammazza il cancro, per cui alla fine che vedi poi che... se tu ci pensi al silone alla fine gli poteva fregare un cazzo di fumare o non fumare, perché tanto pure si ammalava e moriva, tanto ritornava, quindi cioè, tutto sommato. Tra l'altro me la so rivista 2 o 3 anni fa, tutta quanta di fila, perché c'erano alcune cose che mi erano rimaste un po' criptiche, ma mi sono rimaste criptiche. Ugualmente, comunque, ragazzi, stavo parlando di uno dei allora, tipo gli angeli. Stavo parlando di Battlestar Galactica, che c'è Mr. Zero che ha preso il lubrificante in chat e gli abbiamo interrotto un po' il sollazzo. È vero, infatti, stavamo parlando di una delle chiappe più belle della storia italiana, dai, bisogna dirlo. E poi lei è morona, con questi capelli molto voluminosi, molto mediterranea, nonostante essere appunto americana, anche se la madre l'americana. Cioè, però la madre per esempio era comunque italo-americana, il nonno era italiano, insomma comunque c'era una... l'americano non esiste, o meglio sta in riserva. Esatto. Cioè, è finita la benzina. Magari. La benzina. Cioè, sto in riserva. Sto in riserva. Esatto. Vabbè, io mi dissocio. Volevo sapere, insomma, sì, anch'io mi dissocio, ma sai com'è, libero. Cioè, capisco il tentativo di farci fare l'indeterminato al libero, però. Beh, ragazzi, sono sempre soldi. Sono sempre, è tempo di crisi questo. Esatto. Vabbè, volevo sapere un po' la vostra opinione, partendo da Walter, insomma, so, un ricordo, un callo sulla mano, non lo so, qualcosa che... Allora, in realtà un ricordo trasversale, nel senso che sì, lei me la ricordo anche nei film con Lino Banfi, però in realtà rispetto alla sua più celebre antagonista dell'epoca, che è Edwidge, probabilmente in termini di film al cinema ne ha fatti anche di meno, perché di tutte quelle commedie boccaccesche che tu citavi, Nadia Cassini ne ha fatta giusta qualcuna, ha fatto l'infermiera nella corsia dei militari, la dottoressa ci sta col colonnello, però diciamo ne ha fatti veramente pochi. Poi ha lavorato un po' in televisione, tipo il primo anno di Drevin, poi è stata sostituita da Carmen Russo, quindi io la ricordo un po' meno. E poi comunque in quegli anni i miei primi pruriti di bambino erano per Edwidge sicuramente, anche perché diciamo che mi colpiva un po' di più il davanti che il di dietro, e in quello Edwidge probabilmente non si batteva, quindi mi ricordo più lei, ecco. Sono d'accordo, però purtroppo di queste cose ne parleremo il giorno in cui insomma anche la buona Edwidge prima o perché poi, non è morta? No, ancora no. Andiamo. No, tra l'altro è ancora una bella, cioè chiaramente no, Edwidge non morirà mai. Edwidge è dentro di noi, dentro di vive nel nostro cuore, a fianco al Darfur, non può morire. Esatto, in quella parte del cuore che è rimasta residua dal Darfur, esatto. Vabbè, no sì, ma ha ragione Walter, cioè nel senso io me la ricordo bene, perché comunque vabbè, magari rispetto a altri sono leggermente... poi scusa, in quegli anni c'era l'abbondanza, perché poi c'era anche che ne so, c'era Gloria Guida, c'era c'era la mamma di Borghese, c'era Barbara Boucher, c'era insomma, cioè dove potevi scegliere la tua preferenza somatica, quella che ti è bionda, bruna, rossa, che poi rossa. Walter, perché scegliere, insomma, tutto sommato. Certo, ma voglio dire, esatto. una botta in amicizia non si negava a nessuna all'epoca. Esatto, magari ci fossero cascate. Io mi sarei raccontato anche dei cosa, come si chiamava quella, da Touch Me? Samantha Fox, no, Sabrina Salerno. Samantha Fox, bravo. Samantha Fox c'avevo accontentarsi, poi far ridere il concetto di accontentarsi, sarebbero state loro ad accontentarsi. Poi vabbè, io personalmente, tu eri un pochino più grande, quindi in quegli anni bene o male adolescente o poco più ci stava, noi eravamo ancora bambini, perciò è un po' più... sì, ma poi io avevo questa cosa che ogni tanto la notte magari, che ne so, che non c'era mio fratello, via dicendo, cioè non so, ma te accendi il televisore e la notte ne trovavi delle cose, insomma. Ragazzi, telelupa. Esatto, sì. Esattamente. Va bene, comunque. Non ho capito. Puccio, è suo o no? Cioè, ci sei? Puccio adesso è suo, è caduto per un attimo. Sì, ci sono. Quando sono entrato dentro. Bisogna capire se ci sei o ci fai, perché pure questo, insomma. Tu guardi. Due, dipende dalle circostanze. Guardi, ma io un po' come. Come Walter. Sì, me la ricordo un pochino di più in Drive-In. Perché i film, quelli lì, forse li ho visti, ma non mi sono piaciuti. Allora, l'errore è piccolo. Allora, i film, quindi lasciando perdere la commedia italiana, sono veramente vecchi e comunque. Te sarà magari anche capitato, forse non te so manca. Io invece mi è capitato perché appunto accendendo l'Isola di Notte. Insomma, qualche volta li riproponevano, diciamo così. Insomma, si riproponevano. È più facile anche adesso che rifacciano tutti quei film, quelle commedie degli anni 70-80 italiane che le repliche del Drive-In, diciamo, ecco. Sì, anche sì. Perché nel Drive-In c'è stato un anno solo. Sì, è vero. Poi comunque ricordiamo il film erotico per eccellenza degli Agassini che è Dio Serpente, che poi sembra una biastima, capito? Comunque ha fatto tanta roba pure all'estero, insomma, quindi è un personaggio che per un periodo, fino a che gli ha detto la bellezza, insomma, ha funzionato, poi è passata un po' nel dimenticatoio. Tu Buccio? Buccio? Vabbè, scusate, ho messo il muto. Stavo dicendo, no, anch'io ero più ho messo il muto, io ho messo il sordo. Vabbè ragazzi, non mi fate fare battute becere, diciamo, no. Che pure io stavo più dalla parte della panic. È un plebiscito, ragazzi, ma Edwidge ha turbato. Ma questo lo sai perché? Perché da ragazzini non capivamo il valore delle chiappe, cioè, sì, Edwidge ti usciva le tette, esatto, eravamo più attirati dalle zizze, capito? Il lato B l'abbiamo scoperto. Che ti riportano un po' in quella maniera ancestrale alle origini, no? La tetta è il nutrimento, e cioè non. Sì, è vero. Sono vabbè, siamo a fare psicologia dei porno. Ok, io arrivo per il momento. Psicanalisi di un porno. Esatto. Il tema della serata era un altro, va tutto bene, ragazzi. Io ad esempio. No, ma in realtà credo che a me. Io la ricordo più per Drive-In, come probabilmente per una questione anagrafica, no? I film suoi mi è capitato di vederli. Cioè, c'è stato un periodo in cui ho cercato di vedermi tutti i film dell'epoca. Quelli con Banfi, quelli con la Fennec, quelli con Thomas Millian, soprattutto. Ma vabbè, proposito, io metto un'immagine indicativa in chat, perché insomma onore un'immagine esplicativa, esatto, che diciamo il punto forte di Nadia Cassini. Sì, anche se questa immagine valorizza fino a un certo punto, però insomma, perché è la fotografia che è sbagliata, secondo me, quindi se voleva un po' più di chiaroscuro, capisci? Ho capito, cioè vuoi farla in bianco e nero? 5.000 lire con penso di Lino Banfi incluso, esatto. Vabbè, sì. Puccio, hai finito? No, assolutamente, però devo dire, ho dei ricordi molto, molto belli anch'io. Belli. Però più della Fennec. Più della Fennec, sì, no, ma io ancora adesso. Cioè, io non è che non sono d'accordo su questo, però voglio dire, comunque Nadia Cassini era più esotica, no, da un certo punto di vista. Sì, senso, sì, no, per carità, era un tipo di bellezza diversa. Era la mediterranea, quella che. Vabbè. Pur essendo, come dicevamo, americana. Pur essendo, sì, italo-americana, un po' americana. Tra l'altro, il padre era tedesco, quindi vedi che insomma. Ma sono quei melting pot culturali, tipo c'è un'attrice che sta spaccando sui social, quelli spiritosi, no, che è madre giapponese e padre brasiliano, e viva la genetica, proprio ha preso il meglio di entrambe le. Poi vi fornisco delle foto in separata. Beh, sì, ci fornirai delle foto, e se ce le fornisci in separata sede significa che insomma, vabbè, comunque salutiamo NSFB. Salutiamo la nostra Gian Liu Mule. Esatto. Al secolo Nadia Cassini, perché dobbiamo passare al prossimo morto. Esatto, il allora prossimo morto è. Perché non è un caso se si chiama Pop Coroner. Perché ci hanno una settimana, ma più no, coccodrilli perché noi che le paludi della Florida. Ma non è una settimana, è che noi è tanto che non andiamo in onda e la gente nel frattempo. Vabbè, ma è morta un sacco di gente. La gente moriva, esatto. Tranne Shatner. Tranne Shatner. E lui non muore mai. Perché non muore mai? Noi ci sta più per culo. Perché non muore mai? Perché James T. Kirk, se tu lo ricordi, lo diceva sempre: io sono quello che inganna la morte. Esatto. Poi anche sì, quello che è sicuro che sarebbe morto da solo. Esatto, tra l'altro. Quindi, vabbè, da solo quello non lo sappiamo. Però fino a che ha la sua bottiglia di bourbon alla quale lui è abbracciato, è come se non fosse solo. questo è un forse suo... è morto, ma il barbon lo tiene in buono stato di conservazione. Non possiamo sapere. Lo tiene in buono stato. Sappiamo come è morto. No, che ci sono il professor Sole in generazione. Esatto, ma vabbè, esatto, esatto. Ma non è vero, poi non è vero. Non è vero, perché comunque c'è sempre il Nexus de mezzo, quindi c'era, ma non c'era, cioè, capito? Cioè, c'era, ma una parte di lui è ancora nello spazio-tempo del Nexus, quindi vabbè. Raga, insomma, con tutti sti morti parliamo di uno vivo, è poco carino. Prego, prego, Sbano, prego, vadi, vadi. Non so, vogliamo pescare dal mucchio a caso? Pesca, pesca, li dobbiamo di tutti, quindi... Io non riesco ad avere un ordine cronologico, però vabbè, diciamo che... citandone un paio per fare diciamo un 1-2, rimanendo nell'ambito cinematografico possiamo citare per esempio vabbè Richard Chamberlain, l'attore celebre per Uccelli di Rovo, che francamente non ho nemmeno mai visto, quindi no, non saprei neanche io. No, dai, ragazzi. No, conosco perfettamente. Vabbè, ma non mi interessava, ma no, c'avevo 5-6. Io lo capisco che non ti interessava, e capisco pure che non ti interesserebbe manca adesso. Però va visto, perché c'ho tutti sti baci. Mia madre, mi ricordo questa non cosa. Era quello il problema. No, come no? È che lui era un prete. Certo. C'erano tutti sti baci con prete. Perché lui era un prete. Ma la cosa, io mi vedevo mia madre che se lo guardava e poi davanti al tesoro faceva i baci, come se baci. Ah, ma stai calmo. Vabbè, oh, giusto, po' la signora mamma. Io di Richard Chamberlain invece ricordo una serie televisiva di cui era protagonista, credo negli anni 50-60, che si chiama Il Dottor Kildare. Quello me lo ricordo, sì. Perché lo facevano sempre d'estate e al mare. Poi tradotto in italiano significa tipo qualcosa tipo cosa uccidere. Cos'è? Kill there, certo. Cioè, non cosa... è kill them, è kill there. Kill there. Quindi cosa uccidere? Quindi uccidi lì. No, no, esatto. There, cioè dare, cioè o there, osa uccidere. Ah. Okay. Ah, there. No, vabbè, sì. Comunque sì. Ah, stai un po' aggiustando, insomma, che era anche un po' particolare perché raccontava un'epoca del diciamo della medicina e della chirurgia già precedente a quando da bambino negli anni 80 lo vedevo, e quindi in qualche modo già un pelino anacronistica. È come vedere Quincy oggi, insomma. Madonna, tu ricordi Quincy? Il dottor Quincy. Sì. Però Quincy era un patologo, fate un salasso con le sanguisughe a questo paziente. Dei ragazzi, delle persone malate, tipo che ne so, che dovevano fare la dialisi per i reni oppure i primi trapianti, si parlava di queste cose che erano iper innovative all'epoca, il trapianto del resto del corpo. Sì, possiamo dire che lui era un po' il Keanu Reeves degli anni 70. Non so, ma c'è sempre... Non credo che si prostituisse da adolescente, però. No, ma che c'entra? Io dico un po' come personaggio, cioè ricorda fisicamente. Non so perché lo associo, non so perché. Non so. Ma in realtà c'ha sto mascellone volitivo. Non lo so, assomiglia. Sai invece a Ridge. Chi... No, sai chi forse assomigliava di più giovane per giovane? A Christopher Reeve. Va bene, sempre Reeve, vedi, Reeves, mi viene da ride. Sì, vabbè. Comunque, vabbè, dai, ragazzi, Uccelli di Rovo, i baci. Anche se poi si è scoperto, ma dopo essere gay, quindi era baci, baci. Vabbè, che vuol dire? Pure Gary Reese, sì, pure no. Che new, vabbè, insomma, pure lui è gay, no? Quindi, no, però. Sì, dicono che è gay. No, veramente è felicemente sposato. Sì, vero. Con un artista, una scultrice. Ma quella è la scena, è la scena, capito? Cioè, però no, Morello, la moglie, la compagna precedente gli è morta tra le braccia. Perché ha scoperto che era gay. Quindi okay. Morta. No, vabbè, dai, non si scherza. Allora, dobbiamo parlare di corone, di roba di morte. Il problema di Richard Chamberlain, che sicuramente avrà avuto una lunga carriera, però io non lo ricordo in nessun ruolo specifico. Mi sembra che abbia fatto anche qualche cosa in una delle tante versioni dei Tre Moschettieri, può essere? Non lo so, però la cosa figa, ragazzi, è che lui è apparso anche in serie abbastanza moderne. Potrei citare Desperate Housewives, potrei citare Nip and Tuck, ma soprattutto nella serie evento Twin Peaks del 2017 c'è lui in un episodio solo, ma c'è. Oddio. Aspetta che me lo sto ricordando, quando? Dopo l'episodio 8, io mi sono fermato all'episodio 8. Cioè, dopo non ci abbiamo capito più un cazzo. No, sì, per l'episodio non ci ho capito un cazzo. No, vabbè, ma ci sei capito un cazzo manco da. Cioè, inizia proprio male. Comunque, figo. No, me lo vado a ricercare. Allora, diciamo che è uno di quei personaggi che ha fatto tanto negli anni 70/80. e che ovviamente la nostra generazione non se l'è cagato più di tanto. Se non fosse stato per Uccelli di Roma, esatto, nessuno in Italia se ne sarebbe accorto. Allora, sì. In realtà, ragazzi, ho cliccato la sua filmografia. Esatto, diciamo di produzione, e al di là del fatto che ha lavorato al cinema tanto, soprattutto negli anni 70, poi in televisione ha fatto tra gli anni, diciamo, 80 e 90 una vagonata di cose che sono tutte magari da guest star, quindi neanche ci facevi tanto caso in Italia, però veramente vai a leggere, ha fatto cose tipo una serie di serie, scusate il gioco di parole, che magari in Italia nemmeno ci sono arrivate, o comunque ci sono arrivate diciamo così con poca celebrità. Però per esempio addirittura ha fatto anche Will & Grace, ha fatto addirittura un episodio di Chuck, ragazzi, vabbè, così resto quasi basito. Evidentemente era già talmente anzianotto che uno faceva anche un po' fatica a riconoscere. Vabbè, ma poi in generale comunque in America, cioè nel senso soprattutto anche negli anni 80, vi ricordate? Che noi magari alcuni personaggi lì per lì non li conosciamo, poi quando li abbiamo conosciuti successivamente siamo resi conto, cioè vi ricordate tipo, che ne so, Leonard Nimoy che ogni tanto appariva, che ne so, in puntate Rando, a caso. Colombo. Lui è stato il primo villain del primo episodio del Tenente Colombo, che peraltro ha la particolarità di essere stato diretto da un certo Steven Spielberg. Sì. Mica cazzi, ma è comunque grande serie Colombo, eh. Io devo dire la verità, è la genialità, no? In un mondo in cui si facevano una marea dei polizieschi investigativi, no? Comunque c'era il detective, quello che capiva le cose, insomma, che incrociava le cose, spiava, faceva. Lui non faceva un cazzo, lui rompeva i coglioni alla gente. Alla fine si consegnavano. Cioè, sono stato sbattermi in galera. Perché lui come entrava aveva già capito tutto. Anche da innocenti, basta che la finiamo, sono stato io. basta. Cioè lui quando entra capisce subito tutto e ti rompeva talmente il cazzo che alla fine mi ha rotto i coglioni, portami in galera piuttosto di sto stronzo. Però geniale, comunque, che è Peter Falk, giusto? Peter Falk. Sì, però la cosa bella era che detto tu occhio di vetro, lo vedevi all'inizio, no? Quindi sapevi come tu il delitto lo vedevi all'inizio. Sì, cioè, sì, tu certo. Sapevi come era andata. Cioè, ma era il gioco era capire come ci arrivava lui. Era quella la formula figa, capito? Cioè, il mio sogno sarebbe sempre stato, purtroppo sarà possibile, il Tenente Colombo contro la signora in giallo. Lo so, immagino, sì. C'è Colombo, c'è la signora in giallo con Magnum P.I. Sì, ma non è la stessa cosa. Ma secondo me, se ci fosse questo crossover, verrebbe fuori la verità che tutti hanno paura di dire, e cioè che tutti gli omicidi della signora in giallo sono stati commessi da lei. Vabbè, ma in realtà... non c'è bisogno neanche che sei muovato. Esatto, cioè, è evidente, sta sempre lì. Secondo quando muore qualcuno, secondo me Colombo non ci è mandato perché era troppo banale sta cosa. Cioè, nel senso, ma che venga Colombo a Cabot Cove non poteva entrare. Esatto. Cioè, la prologo di Cabot Cove io diciamo che se stai, che ne so, fa un tour on the road in America, a un certo punto vedi il cartello Cabot Cove, te giri proprio, cioè nel senso, il mortacci vostri, proprio fai una cosa, una sgommata in versione inchiodi U. Esatto, fai una inversione a U e te ne vai a fanculo, perché insomma comunque anche lì lei secondo me ha fatto tante comparsate in tante serie, quindi anche non sapendo magari che era lei, secondo me da qualche parte è sbucata fuori, insomma. Sì, ma spesso come signora Fletcher, tra l'altro, vabbè, lì perché poi dopo era diventato talmente personaggio, si facevano ogni tanto, si facevano nelle serie americane sti crossover che Magnum P.I. e la signora in giallo è un esempio. Che se ci pensi erano completamente improponibili, che dici, non ci avresti mai pensato a una cosa del genere. Comunque, vabbè, Richard Chamberlain, salutiamolo. Ciao Richard, bella. Insegna agli alberi a fare finta di baci. Di fare finta di baciare le donne. I baci da prete, ve lo ricordiamo. Sì. La storia di un prete zozzone. Perché lui che è assolutamente non credibile come storia. No, per carità, però. No, perché è una donna e non un bambino. No, ok, andiamo avanti. No, ma la cosa che lo rende fantascientifico è il fatto che lui non è che è un prete che ha delle pulsioni, che ci sta tranquillamente, che era bello lui, la sua maledizione era di essere ed erano tutte maggiorenni, infatti, ma esatto, io non ho capito, è incredibile, è bello che si tromba le maggiorenni, guarda, sì, che... esatto, però lui, capito, c'aveva questa maledizione di essere prete ma essere bello, quindi insomma una brutta storia. Comunque vorrei dire che Uccelli di Rovo è il soprannome di uno dei parroci di Putignano. Lui lo sa perfettamente. I baci. Vabbè, ragazzi. Vabbè, senti, ma poi il prossimo. Passando al prossimo morto, posso passare un asset? Pensi che si sentirà? Sì, se si sente la mia voce, si sente anche questo asset. Allora, ci proviamo. Lo trovo doveroso. Vai. Io non sento niente. Strano, dovrebbe esserci, perché se arriva la mia di voce. Amici in chat, state sentendo della musica? Sai che devi fare, Walter? Devi andare a controllare impostazioni di Google e levare audio professionale. Se no lui discerne tutto ciò che non è la tua voce. In sottofondo stiamo ascoltando Danger Zone, perché stiamo commemorando uno dei grandissimi... Ah, niente musica. Vabbè, è strana questa cosa, perché i canali sono aperti, quindi per logica, se sentite la mia voce, a meno che non ci sia una sorta di filtro... Stoppate, ti sto dicendo, vai nelle impostazioni di Google e digli di levare audio professionale, perché sennò leva tutto ciò che non è la tua voce. Metti audio pezzente. Audio pezzente, ok, vabbè. Provaci, dai. Lo utilizzo anche per lavoro, perciò magari audio professionale poteva anche essere utile, mi devo ricordare. Di rimetterlo, rimetterlo. L'ho tolto. Prova. Facciamo una prova, sono iper curioso, la rimetto da capo, cursore di qua, via. E dai, mo sì che si sente. Bella Sbano, bravo. Uno dei grandi Top Gun della storia, uno che ha salvato gli Stati Uniti e il mondo da chissà quale catastrofe. Per consegnargli nelle mani di Trump. Di malattia, Val Kilmer. Sì. Fu anche Batman. Ma non se lo vorrei ricordare neanche lui stesso, secondo me. Perché... Per quanto meno brutto di Clooney. Sì, ma tanto sempre Joel Schumacher di mezzo c'è. Quindi. Ma figurati. Beh, perché lui vorrei ricordare che in Top Gun non si è mai capita la nazionalità dei piloti degli altri aerei. Beh, si sapeva solo che erano dei MiG. Cinesi, russi, non si poteva taiwanesi dire, non si poteva dire vero. Erano probabilmente dei terroristi laici del Burmini, erano uno stato canaglia. E tra l'altro non erano neanche dei MiG, quindi sì, come... no, dicono MiG sì. Io per da quello che ho sempre letto sapevo che erano degli aerei dell'aviazione italiana, tra l'altro, quindi... Italiana? Sì, perché spesso e volentieri nei film di guerra con i combattimenti aerei venivano utilizzate le pattuglie acrobatiche italiane. Sì. I Panavia Tornado. Ragazzi, ma d'altro te non è che potevi andare dai russi e dicevi mi presti tu MiG che devo fare un film. Cioè, però ti ricopiamo, tranquillo. No, però li lasciamo stare. L'altro quando... Ti promettiamo che non facciamo come Rocky 4 che mettiamo la caricatura di Gorbaciov alla fine. Madonna, ragazzi, perché ricordati che se io posso cambiare, tutti possono cambiare. Voi potete cambiare, tutti possiamo cambiare. Esatto. Prima ad aver detto questa frase, l'inventore del telecomando. Esatto. È vero, hai ragione. Che prima, ricordiamo, per quelli che non lo sanno, intanto rimettiamo la nostra basina, perché che prima del telecomando, ragazzi, c'era un altro sistema di remote control del televisore, che era il figlio. Esatto. Si facevano i figli in Italia per questo motivo, per mandarli a cambiare canali del televisore. Ci sono passato. Oppure qualcuno con la scopa anche. la scopa, qualcuno però, con la scopa sul figlio anche. Dipende dal modello di televisore, perché se avevi quello fortunato con i 16 pulsantozzi, sì, ma se c'erano quelli con le rotelle, certo, hai ragione. Io c'avevo un televisore che c'aveva, non so neanche come descriverlo, era tipo a sfioramento i pulsanti. Ah, sì, touch. Sì, credo che fosse Umbrion Vega. Sì, non lo so, però comunque c'era Telefunken, bravo. Era un telefunken. C'aveva mia zia. Perché ricordate sempre che noi siamo... Scienza non fa scienza. Bravo. Del resto il Palcolor l'abbiamo inventato noi. Esatto. Ragazzi, io voi... Purtroppo Mister Zero, posso dire una cosa? Tu sei veramente giovane, il che è la tua grande fortuna, perché hai ancora tutta la vita davanti. Però da una parte ti sei perso tanta roba, però è anche una sfortuna perché hai tutta la vita davanti. Certo, tu vedrai la terza guerra mondiale, l'apocalisse nucleare, noi non si sa. Ho la sensazione di sì. Potremmo viverla insieme, esatto, potremmo riuscire di fare questa esperienza con te. Esatto, però questa improvvisa accelerata, se diciamo, dovesse che, succedere, facciamo una live. Certo, il live lo vediamo, eccolo, ecco, Shatner. Ecco il bagnone. Ecco, ecco così se l'ha aggiunto. Noi invidiamo Shatner in, ovviamente in, in collegamento. E ricordate sempre che lui, lui che, risponderà: che lui riemergerà come, come, come un ghoul. Chi te sei un ghoul? Chi te sei un ghoul? Bene, quindi passiamo al prossimo morto. Allora, aspetta, dice, dice Mr. Zero che quando ero piccolo, quando era piccolo nei primi 2000 in Ecuador, a casa dei suoi nonni c'era la TV in bianco e nero. Sì, ma c'erano degli, diciamo, degli spot pubblicitari, delle cose che noi ricordiamo perché ci hanno triggerato l'infanzia, che fanno scattare delle reazioni, come lo slogan di prima, il Palcolor, Telefunken, eccetera. Quindi sono anche, diciamo, richiami a una cultura un po' più locale, al di là del fatto tu immagini che... questi nuovi, questi no, nostri cervelli di bambino che c'è, allora tu, no, ma poi immagini, arriva, aspetta, allora, al di là della battuta, aspetta, e dello slogan, ma c'era figo lo spot, sì, no, no, ma dico, immagini, era bellissimo, immagini, vabbè, questa cosa lo vado a recuperare, voi intanto immagini questa cosa, cioè la natura per generazioni, per migliaia di generazioni ha plasmato il cervello umano perché nei primi anni praticamente imparasse ed assorbisse tutte le informazioni necessarie per poter per sopravvivere, cioè qualsiasi informazione era utile per sopravvivere, e noi invece siamo andati avanti con noi siamo scienza e non fantascienza. Immaginatevi come siamo finiti. Così i nostri amici lo possono recuperare, noi lo conosciamo. Tra l'altro noi eravamo col cervello debilitato dalle delle merendine discutibili. Perché discutibili? Degli, cioè, c'erano dei carichi di zucchero importanti. Ah, beh, sì, sì. Allora, uno e spot, anche dell'alcol in volte. Uno spot fondamentale col quale sono cresciuto era quel famoso spot della tipa che saltava e portava le gambe indietro durante il salto e diventava una Z, non so se ve lo ricordate. Zucca. E lei, e, oppure c'era quel, zucchero. No, zucchero, quello, il cervello ha bisogno di zucchero, ricordate? E quindi lo zucchero, e noi siamo cresciuti con questa cosa. Poi dopo ci siamo resi conto che era tutta una stronzata e la, la metà di noi sono morti per questo, no? Però insomma, cioè saltando e facendo la Z in aria. Però la pubblicità di Telefunken era proprio figa, perché che, cioè, potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultravivaci, cioè, e lui si leva gli occhiali e diventa tutto un fantascienza. Esatto. Adesso il Palcolor l'abbiamo inventato noi, che poi se tu però vedi poi delle Funken, adesso è in mano ai turchi, però vabbè, il Turk, il Turkenfunken, il Turkenfunken, vabbè, comunque dai. Vabbè, Simone, per il prossimo, per la prossima De Cuius, io ti farei esprimere un pensiero, perché probabilmente sei la persona più vicina vista a, a Suor Paola. Sì, diciamo che diciamo, mi dispiace perché comunque era laziale, e soprattutto perché ha fatto comunque... E non dispiace che era laziale, infatti. Era, comunque ha fatto tante opere, cioè nel senso... Teatrali? No, no, proprio comunque, cioè, ha fatto... tanta roba per i bambini, per i disabili, insomma, devo dire che poi alla fine... Si è accollata pure alle Manno prima che se lo ribevessero. Che ha fatto? Si è accollata anche alle Manno prima che se lo ribevessero. Vabbè, stavano servizi sociali alternativi al carcere Paola. Da lei. Ah, con Sor Paola, ok, vabbè. Comunque, Sor Paola è diventata famosa, è venuta alla cronaca con la trasmissione, quella di Fazio, no? Quelli che il calcio. Quelli sì. Che il calcio, perché lui andava a cercare tutti questi personaggi e lei... da suora andava a vedere le partite della Lazio e commentava, risultava quando la Lazio segnava. Era divertente, come personaggio è sempre stato divertente, ma era pure comunque un personaggio bello, deciso, insomma, era una che comunque ha fatto comunque veramente delle cose positive, ecco, diciamo, da un certo punto di vista, soprattutto ecco con nella sfera del mondo dell'handicap. Questa è stata, tra l'altro, l'altra volta quando sono stato allo stadio c'era insomma tanti ragazzi schierati, ovviamente delle scuole sportive della Lazio, che erano comunque, diciamo, non gestite da Sor Paola, ma erano comunque insomma, lei ha sempre dato una mano da questo punto di vista. Quindi ci ha lasciato non è sti cazzi, perché, cioè, per carità, però insomma, non è una cosa che mi sconvolge l'anima, però mi dispiace perché comunque meglio di Cassini, insomma. anche se Nadia Cassini un pelino meno, ecco. Un pelino meno, diciamo che se tu metti il confronto tra Nadia Cassini e Sor Paola, secondo me si sarebbero fatti una bella partita a briscola, insomma. Però un bel biopic con Nadia Cassini nel ruolo di Sor Paola sarebbe diventato comunque no, cioè, ho gradito comunque la delicatezza che ha detto Briscola e non scopa, esatto, quindi, perché ci ho pensato, perché ci ho pensato. Che giocava a scopa con Nadia Cassini, ci ho pensato e quindi ho andato sulla Briscola, quindi avrei potuto anche dire Bridge, yeah. Che non ho mai capito che gioco è, però è scopa. È scopa, ma è sempre scopa. Stai tranquillo, lo sanno manco quelli che ci giocano. Esatto, cioè, non esatto. Le carte a caso. Esatto. E poi giusto? Scusa, Luca S in chat dice: questa l'hanno fatta quelli che ridoppiavano i film di Star Trek. Merita. Non ho capito che intende. Cosa? Non lo so se è un commento allo spot pubblicitario, non so se magari ci vuole dare qualche informazione in più, perché magari ci manca il presupposto. Beh, essendo il messaggio subito dopo lo spot, probabilmente fa riferimento a quello, ma so che ce lo dirà. E l'ultimo in ordine cronologico, ma non per importanza, diciamo, lo spot è doppiato. E non era quello classico su Rete 4, ne ho beccato una versione parodistica, vabbè, poi lo vediamo. Comunque, ultimo ricordo, ma ripeto, cronologicamente, ma non per importanza, è morto anche Antonello Fassari, e devo dire che mi è dispiaciuto un po', veramente un po'. Attore, vabbè, che dalla massa sarà ricordato nel suo ruolo dei Cesaroni, ma in realtà per chi si ricorda la TV delle ragazze, i vari programmi Avanzi, soprattutto i programmi di Serena Dandini eccetera, lui era, diciamo, uno dei protagonisti e ha fatto un sacco di personaggi che ricorderemo sempre. Mandrovona, però insomma ce ne sono veramente tanti. Ed è morto, purtroppo consumato da un male di quelli cattivi, e quando tra l'altro la produzione dei Cesaroni era ripartita, ma credo che lui stesse male già da prima, quindi probabilmente non era parte del cast, però insomma. Ma quindi mi stai di che rifanno i Cesaroni? Sì, stanno, non so se stanno girando, se devono girarli, però quest'anno uscirà una nuova stagione di Cesaroni. E che se vabbè. Io stento, ho visto la prima stagione, quindi non mi chiede niente perché non lo so solo che mi piaceva un sacco a Mastonardi, però. Allora, io devo dire la verità, io di Cesaroni non me li so mai, però so, qualche puntata l'ho pure vista. Sì, ma così, di sfuggita. Sì, quando ti capitava il pomeriggio che stavi, che ne so, magari, insomma, stavi a casa e... Sì, così, ecco. Facevi uno snack con una tazza di latte Nesquik e 14 cucchiaini di zucchero. Oddio, quando sono usciti i Cesaroni eravamo tutti un po' troppo grandi per farci la tennis quick, Simo, eh? Questo lo dici tu. Okay. Ma mi scuso. Quindi, mi scuso, però io è più facile che abbia visto con la birra e popcorn di sera, ecco, però vabbè, ok. No, io purtroppo questa cosa me la so portata per tanti anni, insomma, anche bello grandicello, insomma. No, ma che c'entro, se te piace. No. Però magari l'idea sì, anche quando hanno smesso di fare il Nesquik. No, magari hanno smesso. Ma quando mai hanno smesso? Guarda, il sapore è completamente diverso. Questo è sacrosantamente vero, ma perché? Perché l'avranno ridotto la quantità di zucchero. Ma non perché l'uranio impoverito è finito. Esatto, ma soprattutto perché noi mangiavamo cose che, diciamo, negli anni Ottanta c'erano dei... Sì, raga, ma per quanto gli anni Ottanta, ora non so se voi avete mai avuto modo di approfondire, ci sono dei prodotti che in Italia arrivano nelle loro versioni, diciamo, meno dannose, ma che in alcuni paesi, Stati Uniti in primis, ma poi in secondis il Giappone, hanno delle varianti assurde. Ve ne cito due. Uno è il Kit Kat. Al wasabi. C'è a qualunque cosa, al wasabi. Ma... A me piace quello verde, quello al tè matcha. L'altro è proprio il Nesquik. In Giappone esistono migliaia, tra virgolette, di varianti di Nesquik, tra cui quello alla fragola. Sì, quello io sono curioso, devo dire. Ma non è che è chimico, ragazzi, mi è capitato che me l'abbiano portato dal Giappone. Mamma mia, ragazzi, non l'ho portato di contrabbando dal Giappone, sì, perché secondo me, cioè, è stato l'arresto. No ragazzi, cioè, io ho un amico che praticamente mangerebbe solo zucchero, se potesse, e lo trovo tanto gustoso. Infatti se l'è finito, io l'ho assaggiato, cioè ragazzi, credete, è trasferito in Giappone, non si può, non si poteva deglutire, una cosa di un sintetico, di un chimico, di un dolce Vabbè, ma c'è anche, anche il Nesquik originale, no, cioè nel senso degli anni 80 era bello chimico e stradolce. E diciamo Morbid che il cacao è tuttora, esatto, cioè nel senso poi da noi no, ma adesso è più cacao, non, cioè, allora guarda, io l'ho ripreso l'altro anno per provarlo, così per curiosità, perché ero curioso di vedere insomma un po' come stavamo messi con sto coso, e come va il Nesquik quest'anno, esatto, okay. E devo dire che perde proprio, cioè nel senso, ma questo perché non ci stanno più le sorprese dentro, non con la plastica chimica che sì, si scioglie, sì, vabbè, ma regà, ma noi l'abbiamo mangiata la merda, cioè, poi dopo, cioè nel senso, oggi tu le vai a riprovare tantissime altre cose che sono sopravvissute agli anni 80, le vai a assaggiare oggi, un po' per una questione mnemonica, un po' perché magari anche le tue papille sono cambiate, un po' perché sono cambiate proprio le formule, quindi, però devo dire che la cosa del Nesquik alla fragola, pur sapendo che deve essere una monnezza incredibile e che è roba che strachimica, io comunque ho la curiosità di assaggiarlo, cioè se ci fosse un barattolino piccolo me lo comprerei, ecco, diciamo così. Comunque vorrei usare un attimo la radio a scopo privatistico, visto che stiamo discutendo. Signor Motta, la girella ai frutti rossi, se fosse possibile rifarla, perché me l'avete fatta un anno solo, mi avete fatto innamorare e poi me l'avete portata via. Ma ci sarà una ragione, Puccio. Metti un cazzo, io la divoglio. Cioè questa era come la cosa dei sofficini, che molti non sanno, ma quando eravamo ragazzini noi, c'erano i sofficini al gusto carne, che sono durati pochissimo. Mai fatti, tipo. Sì, non so, sono durati pochissimo, perché penso che quei pochi che l'hanno mangiato gli faceva proprio schifo, insomma, no? Non siano qui a raccontarlo. Esatto, molti non sono più qui a raccontarlo. Però, insomma, ecco, per ricordare quello che ha detto Puccio, io vorrei dare una perla di saggezza a tutti quelli che ci ascoltano, perché ricordatevi che la morale è sempre quella. Fai merenda con girella. Scusate, insomma, non è. Poi erano buone, cioè avevano questo retrogusto di sciroppo per la tosse, cioè se le sarebbero piaciute. No, cioè, io e lui ci abbiamo questo feticismo. La puntina d'alcol, d'altra sì, parte, in sì, merendine più economiche, non so se vi ricordate le Montebovi, per esempio, c'era cioè, no, proprio spuntano proprio l'ammoniaca. Qui in Puglia non arrivavano. L'ammoniaca. No, io. Cioè, non so, che non è una battuta. In molte produzioni industriali a lunga conservazione si usa l'ammoniaca, Simone. Non lo sto dicendo in caso. No, si usa anche per fare biscotti. Cioè, senso, biscotti all'ammoniaca. Io non lo sapevo e non faccio fatica a crederci, però mi faceva ridere l'ammoniaca. Cioè, nel senso. Lo so. Ma così. Senti questo gran senso di pulizia. Ah, c'è un po' di vermouth. Però, no, c'è l'ammoniaca. Ragazzi, io non so se vi ricordate, perché l'hanno tolte dal mercato probabilmente dopo troppi incidenti stradali, però prima ancora della girella c'era la fiesta, la fiesta al whisky. Ma non era che era, allora la fiesta era alcolica, cioè no, proprio c'era quella orange che comunque c'aveva il pan di Spagna alcolico, ma c'era proprio la fiesta al whisky. No, quello non lo so, però cioè quant'era sì, buona. Sì, no, me la ricordo pure io. Quant'era buona la fiesta. La fiesta era proprio buona, raga, cioè buona, ma pure la girella era buona, cioè non ho assaggiato quella alla marmellata, però era buona. Poi c'hanno tutto quel rossino proprio da guarda, c'è l'alcol qua dentro, l'alchemos, non è che se facevano tutte queste storie, capito, cioè forse bevi che fa sangue, forse, esatto. Vabbè, mio nonno ogni tanto, quando io stavo in campagna da loro, a colazione bicchiere di vino. Beh, anche che con la sigaretta, che fanto da un cicchetto. No, mio nonno non fumava, io ero bambino, però diciamo che il bicchierino. Il bambino è l'ultimo dei dettagli, insomma. Esatto, il bambino che col bicchierino di vino rosso e la pizza al formaggio, madonna che ricordi, ragazzi, che belle cose. Cioè, proprio come si riaccende proprio il neurone della memoria su queste cose, insomma. Perché poi. Quello che l'alcol non ti ha bruciato. Esatto, esatto. Oppure sono cose che l'alcol ha inventato e lasciato come memoria. Okay. Chissà, non. Però diciamo che quello che i ricordi, cioè legati ai sapori e agli odori, sono sempre forti, sì, insomma, diciamo così. Ma come siamo finiti alle merendine? Cioè, non lo so, perché anche quelle sono morte. Roba chimica, Nesquik. Ah, Nesquik. Vabbè, comunque l'ho ripreso recentemente. Mo se mi capita, comunque prendo pure quella alla fragola e poi lo divulgherò in giro. Però la fragola in Italia non c'è, puoi provare online. No, magari. No, c'è nel senso, c'è nel sito tipo Affamati USA e tutti questi siti che importano. Ok, allora sì, di importazione appunto. Sì, ce l'hanno loro nei negozi, però non è importato direttamente, cioè, capito? Quindi. Mm-hmm. Sì, sì, sì. No, a me sono un po' cambiati i gusti negli anni, devo dire che non ho mai tollerato e tuttora non tollero il latte bianco, cioè io il latte da solo non lo riesco a bere. Però se da bambino appunto Nesquik, cacao eccetera, oggi preferisco il caffè o al limite il cacao amaro. Nesquik non so se mi andrebbe, troppo dolce per i miei gusti attuali. Ma non è più dolce come te lo ricordi, quello è il problema, capito? Cioè, nel senso ma io cerco proprio sapori molto, molto più aspri, molto più amari. Per esempio adesso la cioccolata, se non è almeno un 70% di fondente, ma come è vero, pure non c'ha quel retrogusto di asfalto. No, vabbè, la cioccolata, a proposito dei cioccolati, fondente, sì, io penso per spirito di autolesionismo e anche un po' di follia, fondamentalmente ho comprato una cioccolata fondente al 100%, cioè ragazzi, cioè una noce di cocco lì è too much, sì, lì è too much. Da sola non ce la farei. Se mi dai un cicchettino di rum ne possiamo parlare. Sì, esatto, come degustazione. Sto provando a mangiarla 3 tocchetti al giorno ogni tanto. Allora, diciamo che non fa male, visto prima di tutto, però sì, è tosta. Non c'è zucchero, non è quello al 100% è veramente importante. Diciamo che quando ti ritorna su, però c'è un buon retrogusto. Sì, quando te si ripropone, c'è un buon retrogusto. Beh, comunque, la cioccolata buona all'80% fondente, raga, è buona. Cioè, c'è cazzo da fare. Sì, sì, l'ho detto. 75-80, sì, 100%. Però 100%, io pure una volta ne ho comprata una perché volevo fare il gradasso. Già, ma io il 99% l'ho vista al 100, mai al 100%, però. 100%? Vabbè, 99, sì, sì. 90, 100%, no, 100%. Sì, sì, comunque sì, pure mi è capitato, sì. E costerà un botto, insomma. No, ma l'ho pagato nero e qualcosa. Su, sei sicuro che non è che fosse cioccolato. Onestamente, in realtà, è un panetto di hashish, però insomma, ma 1,99 non sarebbe da fare. Cioccolato è cioccolato. C'erano le virgolette quando ha detto cioccolato, ha fatto le virgolette con le dita. Comunque, vi ricordo, non so, comunque ragazzi, hanno venduto per un periodo di tempo, credo che abbiano finito quella famosa cioccolata di Dubai che pure da Lidl, la pane, cioccolata di Dubai, di Dubai, che praticamente spopolava perché tutti gli influencer costava un boato che non finiva mai. Ed era e facevano alla Latina e faceva cagare, e faceva cagare, e però tutti spendono i soldi per comprarsi questa cazzata perché era la cioccolata di Dubai, che cioè prima ideale per le piante di cacao. Dubai è famosissima, Dubai, no? Ma soprattutto chissà chi l'ha. Mi è venuto in mente un film porno con Dubai nel nome, no? dai dice poi ve lo mando, ma dai, tanto perché a quanto so esiste veramente. Il film? Sto controllando. No, sì. Ok, ma tanto guardi, lo stiamo perdendo. Insomma. Vabbè. Vabbè, ragazzi, del resto abbiamo veramente investito tutte le nostre risorse tecniche ed economiche per fare in modo che il finale di questa puntata di Popcorn fosse tragico. In diretta. Esatto. Esatto. Parte di guardia. Però prima di andare verso il finale, che è ancora un po' presto, diciamo, ci sono delle news, mi pare, no? Ci sono delle news. C'è un morto dell'ultima ora. Attenzione, so che è di calibro proprio. Scusate, stavo in macchina. Chi è morto? Chi è morto? No, vabbè, è morto ieri. Quindi non l'hai vestito tu. Allora, non è dell'ultima ora. No, non è dell'ultima ora. Dell'ultimo giorno. È fresco, ancora fresco. O caldo, come si dice in questi casi. Caldo. È morto Andrea Savorelli, che interpretava Pietro Conti nel Paradiso delle Signore, che è famosa. Non ho la più pallida idea di. No, vabbè, comunque, aveva 30 anni, poverino. C'è un'immagine di pochi. Vabbè, ma non è che mo possiamo fare la morte di chiunque sia, è morto Gigi. È l'ultima ora, bisogna dirlo. Per Fornaro, cioè, nel senso. Morto Gigi Sabani. Gigi Sabani, da mo' è morto. Che poi a me Gigi Sabani tutto sommato stava pure simpatico. Poi mi sa che ci sono stati dei problemi, degli scandali. Esatto, qualche scandalo tipo che faceva i casting. Con la cioccolata. E si inculava la gente. Non è sicuro. Allora, se non ricordo male, da sta cosa lui ne era uscito in qualche modo riabilitato. Non vorrei sbagliare. Sì, però... sì, è vero, però sai... sempre quando ci stanno queste storie di mezzo c'è sempre un io po'. Immagino Gigi Sabani che sei con la gente cambiando la voce. Ah, tra l'altro, ragazzi, imitando Mike Buongiorno. Ho conosciuto Gigi Sabani, no? Gigi Sabani era forte, oh. Non lo so, sì. poi dai piacere o non piacere, però ce l'ho io l'ultima ora, ragazzi. Dai. Voi vi ho raccontato tanto negli anni di quella storia, no, che ho avuto con quell'azienda che mi doveva ristrutturare il bagno, di cui siamo stati in causa, abbiamo vinto la causa, però alla fine questi siamo andati lì a farsi pagare, non ci pagavano, ci hanno dato 1000 euro sui 6500 che ci dovevano ridare e via dicendo, e praticamente poi era arrivato una sorta di scadenza, di ultimatum dal tribunale che se entro oggi non ci facevano con l'intero bonifico di quello che li bloccavano tutti i conti, e oggi sono arrivati miracolosamente sti soldi. Quindi è la prima volta che mi capita nella vita che una storia come questa c'ha un lieto fine, ed è una cosa lieto fine tra virgolette, perché poi vai a dare una mandata di più alla porta, vai. No, ma poi la cosa bella è che oggi il tizio ha chiamato Michela dicendo, perché ragazzi, ragazzi, siamo liberati, vi possiamo far bagno. Questi sono criminali proprio dentro, questi lavorano così, questi campano su sta roba, perché anche se poi dopo c'è i pignoramenti e cose, questi comunque i soldi da qualche parte se li sono pizzati. Questi hanno preso i soldi da qualche altro lavoro. Comunque, alla fine hanno telefonato a Michela dicendogli che lei doveva assolutamente levare la recensione che aveva fatto, altrimenti loro la querelavano per diffamazione. Allora io ho detto: allora Michela, innanzitutto tu non leva mai niente, perché se tu levi gli dai ancora di più la possibilità di fare il sozzone a questi, e poi pensa con tutto di esecutività che dimostra che non è, esatto, diffamazione. Poi, e poi che diffamazione c'è? Cioè, tutti i documenti, cioè, nessun avvocato ti farebbe mai causa su una cosa del genere, perché sarebbe inutile, no? E sarebbero spendere soldi. Ma loro si basano proprio su questo atteggiamento aggressivo, capito? Che alla fine la gente, comunque, magari un po' intimorita, un po'. Ma siamo proprio dei zozzoni. Però, raga, è una soddisfazione riuscire a vincere una causa e riuscire a ottenere tutti i soldi. Allora a questo punto ci metterei anche un PS su cose. Comunque ho vinto la causa. Comunque abbiamo pure vinto. Comunque abbiamo pure vinto la causa. Esatto. Pa. Esatto. No, volevo condividere questa cosa perché. Oh, finalmente potete rifare il bagno, no? Sì, esatto. No, lo fate? Esatto, sì, lo rifacciamo. Abbiamo dato tutti i soldi a un'altra azienda. Esatto, subito però. A casa, esatto. No, vabbè, comunque al di là di tutto è una soddisfazione. Ma adesso chiamano Michela quelli tizi, dice: senti, guarda, o ci togli il commento negativo o mio cugino il bagno non te lo rifà. Esatto. No, vabbè, ma adesso vediamo, insomma, quello che è. Però sì, comunque lo dobbiamo ristrutturare sto bagno. Solo aspettavamo la fine di questa storia, perché veramente assurda e ridicola. Però è veramente la prima volta che mi capita veramente la sensazione di aver vinto la causa e di aver poi, perché vincere la causa significa fino a un certo punto, cioè nel senso che recuperare i soldi, un altro discorso. Esatto, recuperare i soldi è un altro discorso. Invece finalmente ce l'abbiamo fatta. Ecco, lo condivide questa cosa con voi. Mister Zero però ci dice che la famosa cioccolata di Dubai di cui parlavamo prima, adesso la vendono al Hard, che deve essere una catena di discount che non conosco. Sì, prima la vendevano a Lidl. Endemica della Sicilia, perché Hard endemica. No, Hard. No, è come Hard però senza l'H. Ah, ok, Hard. Famoso Pozza Hard. Pozza Hard, no, la prima ce l'aveva Lidl, poi Lidl ovviamente come tante cose fa ce l'ha a tempo, insomma. Sì, sì, quindi, arrivederci e grazie, insomma. Tra l'altro mi sa che finalmente forse mi compro l'insalata di patate già. Quella l'abbiamo già presa, solo che allora non c'è la confezione quella gigante che c'è in Germania, però la confezione è comunque grossa. Quella è una di quelle cose che per ovvi motivi culturali, esatto, cioè, confezione gigante. Tu è una cosa di quelle che ti compri perché alla prima cucchiaiata è una sozzata, cioè, ti sembra una cosa, ma la seconda cucchiaiata già stai con la nausea, già la droga che è contenuta all'interno inizia a fare effetto. Questo sì è peggio, perché veramente, cioè, è praticamente cioè, poi insalata di che, cioè non c'è, ci sono patate e bacon intrise, anzi affogata all'interno di una salsa che potrebbe essere maionese. Non è un po' inappropriata per la nostra alimentazione attuale questa cosa? No, ma io ti parlo tantissimo tempo fa, l'avevamo ripresa. Ok, ok. No, no, no, adesso non... No, perché l'hanno scoperta, l'abbiamo scoperta in Germania. No, ma poi, esatto. Ma poi... questo l'avevo capito. No, poi tornando in Italia relativamente convinti che non esistesse. Eh no, ma purtroppo da Lidl la roba che abbiamo trovato in Germania si trova, capito? Pure... quel tipo di credo che sia quel tipo di quello che la legge consente cibo, che si trovi. Tipo, quel tipo di cibo che l'uso prolungato poi porta al nazismo, una cosa esatto. Del credo che sia no. Marco, come sai al voto dei Lander. Come? Io e te abbiamo un film preferito in comune, parte il processo di arianizzazione. Ok. Esatto, e pian piano però la Marco, sua però Marco non ha capito più bianca, tu sempre più biondo. Tu hai capito che film è? Con l'arianizzatore, Pizzi, l'arianizzatore. Che film è? Oh, Iron Sky. Ah, cazzo, vabbè, oh, ragazzi, mica sono nazi amari. Saranno nazi amari. Ma è fatto di una cosa quando c'è lui, l'astronauta che casca nella buca de... insomma, dove c'è stata e loro lo vedono, è pure nero, capito? Tutti i soldati nazisti che proprio non sanno come capacità. Non si capacita. Esatto, non si capacitano, come sia possibile una cosa del genere. Che il primo grande film, secondo me è una merda. Possiamo dire che il secondo era merda. Il secondo non sono riuscito a finirlo. No, una merda. Questo tentativo di prendere per il culo Apple è venuto fuori malissimo. No, è venuto male perché poi alla fine non c'era niente, cioè... alla fine non era neanche satira, cioè era... No, non aveva proprio... Era una riproduzione in scala reale di quello che è la realtà, da una parte, ma è proprio brutto il film. Cioè... come gli Ocrasi dal resto, se lo vedi adesso dice vabbè, pace. Vabbè. Attenzione, perché parlando di Lidl, purtroppo il nostro Mister Zero tocca un tasto delicato che è quello di Parkside, che è il brand con cui vendono tutti gli attrezzi per fare bricolage, fai da te, eccetera. Che dice: le cose da Parkside sono una perdizione per me. Sto comprando cose che non so nemmeno quando e come usare. Cioè, tipo il trapano a percussione. O la colonna, sai, dici, cazzo, sì. Che te pare che non ti serve nella vita un trapano a colonna? Ho comprato una torcia al plasma, non so come si usa. Io quello che vorrei comprare, ma è difficile. In Italia non arriva praticamente mai, quando arriva semenano, è il robot da cucina, quello simil bimbi, che costa tipo 300 euro. No, allora, sì. Allora c'è nel Lidl dove sono andato io l'altra volta, c'era e non l'ho preso, ma la prossima volta ci vado lo prendo. Non lo troverai. No, guarda, non credo che lo trovi sempre. Perché scusate, no, non lo trovi sempre, però se trova più spesso comunque rispetto a prima. Perché... cosa il? Io l'omino che stila le camicie. Vince. Ma che è lo quello che si gonfia? È un affare, sì. L'ha preso Clelia due volte. È un affare che c'ha. Avete presente quei pupazzi, quelli che si muovono con l'aria sotto? Si gonfiano e ti stira la camicia. Si gonfia e ti stira la camicia. Ma funziona. Ma porco. Funziona. Ma guarda che lo usano anche nelle. Come si chiama? Nelle tintorie le usano, sì, sì. Cioè, esistono, lo dico da uomo che usa pochissime camicie d'inverno. Ma perché, però? Scusa? Perché lo mette dentro, si gonfia col vapore. Vabbè, ma dov'è il lavoro? Dov'è il lavoro? La dignità del lavoro. Quello, tu Simo, se ti piace stirare, vieni a casa mia. Infatti, non è noi non abbiamo neanche il ferro da stirare. Cioè, a casa. Vuoi mettere, vestire un pupazzo di un pallone gonfiato moscio? A mettergli i bottoni, ma già il termine moscio. Mettergli i pesi pure. Già il termine moscio ci mette tristezza, tutto sommato. Sì. Esatto, c'è un senso di declino proprio. Vabbè, ma comunque c'erano ste notizie. Sbaglio. Abbiamo finito i morti? Sì, sì. I morti sì, li abbiamo finiti. No, beh, c'era una notizia che oggi leggevo perché volevo anche commemorare il nostro passato del periodo del lockdown, il nostro mito dei miti, che era ovviamente Vincenzino De Luca, due volte, e ahimè per lui non tre, presidente della regione Campania, che purtroppo si è visto sconfessare una regina su misura che si era autofatto in Campania, nel tentativo di potersi candidare per la terza volta di fila a presidente della regione Campania. La Corte Costituzionale ha detto anche no, e quindi niente, crollano i sogni di terzo mandato consecutivo sia per lui, a questo punto anche per Luca Zaia, che ora starà rosicando perché Zaia è considerato quello, diciamo, quello sveglio della Lega, e figuratevi gli altri, non ha voluto partecipare, non ha voluto insediare la leadership di Salvini alla segreteria del partito, probabilmente due giorni dopo col senno di poi se n'è anche pentito, diciamo, che non è così sveglia alla fine, ma ma secondo me c'è una strategia dietro, perché lui sapeva che comunque in questo momento sfida Salvini sarebbe stato controproducente. però, oddio, perché però se, sai che se non lo affondi adesso, quando lo affondi? Lo so, ma tanto vedi che c'è il super plebiscito quasi. Ma no, ma non si era candidato nessun altro. Appunto, ma c'è, cioè, vuoi dire, c'è una ragione per questo, no? Cioè, in qualche maniera, mica sono, cioè, tutti pure stupidi. Io se mi candido nel mio condominio, non comunque, secondo me c'è gente che sta lì seduta là, sulla riva del fiume. Insomma, questo bisogna dire. Vabbè, comunque, Zaia da vin del culo, e pure De Luca, ma non può tentare quella mossa che vorrebbe fare. De Luca, che la mossa che vorrebbe fare Trump, cioè di far eleggere il suo vice, poi farlo morire e prendere il suo posto? Ah, questo non lo so, però quello dei due mandati non è un limite fisso come per il presidente degli Stati Uniti. Il limite dei due mandati è solo consecutivo. Poi dopo puoi ricandidarti. Che posso dire che è una strozzata, che fondamentalmente. Beh, allora. Dipende, io capisco il discorso della consecutività, perché comunque tu poi sei in grado di creare un tuo giro di potere da quel punto di vista, no? Non che non lo puoi fare comunque, cioè, però vabbè, cioè non, la legge non ti deve agevolare in questo, ecco, diciamo così. Sì, ma non ti, manco ti disagevola più di tanto. Invece non abbiamo grandi informazioni, perché non abbiamo dettagli, però abbiamo soltanto il titolo, però è una cosa che a me, insomma, mi coinvolge un po' in prima persona, perché a Roma è stato fermato un tizio che voleva partire per fare il giro del mondo in camper. Con un camper rubato. Però il camper era rubato. Perché se lui partiva e secondo me superava l'Italia, era fatta, ragazzi. Secondo me non, che cazzo gli diceva niente. Cioè, nel senso. Gli ha detto sfiga. Gli ha detto. Ma per punto lui voleva viaggiare in giro per il mondo per evitare la cattura. No, lui voleva fare il giro del mondo, però poi non c'aveva i soldi per comprare il camper. E ne ha rubato uno. E ha detto, sai che c'è? Insomma. Comunque non è facile, perché se ti fermano all'estero senza documenti non è manco facilissimo. Ma non è che non c'aveva i documenti, ce l'aveva pure, però. Ma documenti di proprietà, non lo so. Vabbè, non... Ma chi ti ferma all'estero con camper? Cioè, ma proprio... i documenti ce li aveva, non erano i suoi, ma ce li aveva. Ah, ma perché in realtà poi capisco il problema. La storia è un po'. Se la vai a indagare nel dettaglio è un po' diversa da così, nel senso che praticamente credo sia successo proprio oggi all'Araceli, c'era sto tizio molesto che stava tra l'altro completamente ubriaco, che dal bordo di un camper stava, diciamo, infastidendo dei passanti, di conseguenza sono intervenuti i carabinieri di Piazza Venezia, che hanno identificato sto tizio, che era un lituano senza fissa dimora, che stava su sto camper, che poi il risultato, il camper si muove per quello rubato, e lui alla richiesta di spiegazione ha detto che voleva fare il giro del mondo, ma stava ubriaco perso, insomma. Quindi la questione è questa, che lui in realtà il camper l'aveva rubato probabilmente comunque in Italia, quando ci ha dormito abitava dentro, ed era ubriaco come una cucuzza. Vabbè, quindi era mezzo barbone, questo ha preso il primo camper, tutto barbone. Invece Walter, so che in Svezia c'è una brutta storia di feci. Ragazzi, mi scusate un secondo, io mi devo allontanare perché sono reperibile e mi hanno chiamato. Vai, si allontani. Cerco di tornare, spero che sia una cosa. Vabbè, eventualmente, ciao Lucio. Ciao, c'è il tempo che gli dice spegni e riaccendi. Esatto. Sì, probabile. È un po' più complicato. Digli così, non si può fare niente. Vabbè, aspettiamo domattina, ragazzi. L'abbiamo perso. A dopo, leccato attorno, ciao. Allora, l'altra notizia che sto andando a ripescare, che avrei voluto dare oggi su OGM, ma che poi ho deciso in qualche modo di devolvere, riguarda una storia che tu dici, vabbè, ma sicuramente sarà successa in Italia, perché una cosa del genere te l'aspetti proprio dal tipico imprenditoriucolo italiano. In realtà è successa in Svezia, ma ha radici comunque in altri paesi nord europei, perché è la vicenda di due tizi che fuggiti già, se non sbaglio, da Copenaghen con dei debiti, sono arrivati in Svezia, hanno creato un'attività imprenditoriale chiamata Ecorifugio, che era, diciamo, una sorta di attività commerciale di ristorazione, eccetera, di tipo sostenibile. Praticamente avevano aperto questo posto che si chiamava Stadens in the Woods, un rifugio definito eco chic nella contea di Halland, ovviamente in Svezia, e a un certo punto hanno aperto questa struttura ricettiva, però quando hanno realizzato che non avrebbero probabilmente potuto pagare l'enorme mole di debiti che avevano nel frattempo accumulato, hanno deciso di scapparsene in Guatemala, lasciando dove sono scappati? in Guatemala. Maremma Maiala. Maremma Maiala. Guatemala, Guatemala. Guatemala, Guatemala, Maremma Maiala. Vai, prego, scusa. Ma quello è il minimo. Il punto è che, vabbè, hanno lasciato tutta la struttura, hanno lasciato anche degli animali praticamente abbandonati. Ma la cosa divertente è che questo rifugio evidentemente aveva, non so se dei sistemi di compostaggio dei rifiuti organici eccetera, fatto sta che hanno lasciato 158 barili di merda. Madonna, comunque. Sì, dovrà smaltire. Ma non so se merda animale, umana o mista, non si è capita. No. Comunque, vabbè, i tizi ovviamente hanno lasciato anche un'ingente quantità di debiti. Adesso non ricordo se 150.000 euro, probabilmente anche di più. Però insomma, un comportamento che te lo saresti aspettato da degli italiani, invece, guarda, anche i nord europei, che di solito sono rigorosi, ligi, quando si tratta di far debiti e scappare, prendono esempio. Eh sì, poi non è che sono nord europei, sono pure scandinavi, c'è cioè proprio l'immagine che tu hai della civilizzazione. Sono gli elfi d'Europa. Esatto, e però succede più raramente, però questo non vuol dire che anche lì non possa succedere. Perché quando succede lì, succede... il culo non è brutto. Esatto, perché lo fanno per tutti gli altri. Sì, non che non incura nessuno, e tu dici, oh, ma come può? Anzi, lo shock nazionale, perché cioè, come può essere una cosa del genere da noi? Il problema è che sono scappati in Honduras, quindi poi bisognerà vedere. Guatemala o Honduras? Che è importante? Scusami, no, in Guatemala, scusa. Allora, Maremma Maiala. Esatto, Guatemala, Maremma Maiala. E infatti, perché poi non mi ritornava più Honduras, Maremma. Maremma Honduras. Maremma del Duras. Vabbè, comunque, ragazzi. Sapete vabbè, che con giura, no. Lo dice, rido ancora pensando alle puntate di OGM dedicate a De Luca. C'era da ridere, se non fosse che stavamo in pieno Covid e quindi c'era anche da piangere. Però insomma, le direttine di De Luca con le sue teatrali uscite. Ma noi abbiamo iniziato del lockdown. Abbiamo iniziato a parlare di De Luca quando prima del Covid, quando facevamo le puntate di OGM lì allo studio di te. E ogni tanto ne parlavamo e facevamo. Però l'avevamo già mitizzato prima. Perché poi per me è un po' il Gassman dei politici campani. Cioè perché lui quando parlo un po' così, capito? E quindi io trovo sempre affascinante ascoltarlo. Poi dopo, insomma, che lui dica. Beh, molto teatrale. Sì, sì, è teatrale, molto teatrale. C'era proprio sta cosa, secondo me l'ha fatto pure il teatro, insomma. Comunque. Detto questo, io direi che in attesa del ritorno di Puccio, noi lasciamo il canale aperto per Puccio, quando torna fa la particella degli odio. E direi che per questa sera, dopo un po' di tempo che siamo tornati, un molto piacere e soddisfazione. E qui su Rata Medium Mr. Zero che dice Gualdi sta per passare a miglior vita. No, se sta a fa una botta. È no, cocco. Ma è normale per Gualdi, cioè non è che. È cioccolata! Esatto. Cioccolato! Poi è bello fare la radio, che poi lui ci prova pure a far finta di scansarsi, però insomma non... Comunque, ringrazio e saluto Walter Sbano. Ragazzi, grazie e alla prossima con Pop Corner, speriamo con tanti altri morti di giornata. Esatto, no, poi torneremo a fare un Pop Corner più Pop Corner e sì, ringrazio... noi facciamo accumulare le prime morti. Esatto, poi, esatto. Esatto. E ringrazio e saluto ovviamente anche Marco Gualdi. Ringrazio voi che ci avete ascoltato e se avete da suggerirci dei morti, cioè fatelo, naturalmente. Su Diretta Runtime oppure su Diretta Runtime oppure dandoci dei soldi. Esatto. Qui non chiediamo soldi, no, in effetti bisognerebbe rifare una campagna di rifinanziamento, di sensibilizzazione. Comunque ricordiamo anche Marco Gualdi con il suo podcast Friendship Drive, Friendship Drive e ho visto cose e ho visto cose, sono addirittura anche, due addirittura sì, e sono uscite recentemente. Ma come fare direttamente ho visto Friendship Drive, esatto. Unire le cose oppure Friendship Cose pure sono volendo. Comunque, ragazzi, da me Simone Pizzi è tutto qui su rantameradio.it. Da domani mattina le solite cose, alle 6 la puntata di questa sera di Le Erezioni della Sera. Le Erezioni della Sera. Le Erezioni della Sera. Allora, sono le orazioni della sera e sono le orazioni e le erezioni della sera prima, capito? Vabbè, è tutto un po'. Ma che cazzo ne so? Arriva. Buonanotte a tutti. Ciao.